Va bene. Comunicazione multimediale, lezione del 10 febbraio. Allora, oggi volevo cominciare a parlare di Luther Blissett, ma visto che approfittiamo che siete voi due che non avete seguito la lezione ultimissima, farò un brevissimo riepilogo, ma tanto poi lo ritrovate in quello che ho detto l'altra volta. Allora, l'altra volta ho introdotto il tema del situazionismo, sì, una brevissima, un po' di storia, insomma, dell'internazionale situazionista e dell'elaborazione quindi di Guy Debord, ho parlato della società dello spettacolo e ho dato qualche informazione sulle caratteristiche dei cicli, dei grandi movimenti di lotte degli anni 60 e 70 del secolo scorso, che sono impropriamente note, vengono in genere chiamate, questi come dei movimenti vengono in genere identificati come movimenti studenteschi. In realtà dietro a questi movimenti, ho spiegato la volta scorsa, c'erano in realtà delle trasformazioni strutturali del sistema formativo, del sistema scolastico in tutti i paesi dell'Occidente, che sono le trasformazioni che determinano il tipo di scuola in cui voi siete adesso, insomma, che è molto diversa da quella che c'era precedentemente. Dal punto di vista parlo dell'istruzione superiore, no? Quindi diciamo del livello universitario. E diciamo, l'essenziale di questa trasformazione era che all'inizio, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, negli Stati Uniti e in tutto il mondo capitalistico, in tutto il mondo occidentale, il sistema universitario cominciò a cambiare la sua funzione, cambiò fondamentalmente la propria funzione e passò dall'essere uno strumento, un luogo, diciamo, come si può dire, di riproduzione, un luogo di riproduzione delle élite dirigenti della società, come era stato precedentemente, diciamo, da luogo di formazione delle élite dirigenti, l'università cominciò a trasformarsi in un luogo di formazione di forza lavoro. Il sistema industriale, comunicativo, insomma, diciamo, il sistema produttivo, tutta la struttura produttiva e lavorativa delle società capitaliste stava cambiando. Doveva stare dietro a una situazione di sempre maggiore complessità di produzione delle merci e quindi si richiedevano una serie di figure professionali totalmente nuove nel settore cosiddetto terziario, il settore della comunicazione, tutti questi settori qua, per i quali occorreva della forza lavoro qualificata, sempre forza lavoro, quindi insomma, però molto più qualificata che diciamo in passato, diciamo, livelli, in modi e a livelli diversi. Uno di questi modi, quello che abbiamo detto adesso, per esempio, era l'importanza sempre maggiore che aveva assunto già negli anni 50, nel primo dopoguerra, tutto il sistema informativo intorno alle merci, cioè non era più sufficiente produrre un buon dado per brodo o una buona automobile, ammesso che ci fossero degli oggetti o delle merci del genere definibili come, virgolette, buoni, ma occorreva tutto un lavoro, cioè, come dire, bisognava far conoscere al pubblico più vasto tutti questi oggetti, farne conoscere le loro qualità, le loro potenzialità, le loro le loro caratteristiche, perché una certa marca di dentifricio era migliore di un'altra, perché il dentifricio Colgate era migliore del dentifricio Palmolive, tutti i nomi che la nostra, in Italia venivano pronunciati in maniera diversa, perché l'Italia degli anni 50, nell'Italia degli anni 50 non erano così diffuse le lingue come sono un po' di più oggi, per cui l'Italia diceva il dentifricio Colgate e Palmolive. E ancora oggi si dice così, cioè, però in realtà voi sapete bene che Colgate è una cosa inglese, erano nomi inglesi che però siccome hanno la E finale, sì. Sembrano italiani, quindi uno legge Colgate e Palmolive, ma in realtà sapete che non si dovrebbe leggere così. Vabbè, e poi c'erano i dadi Liebig, i dadi Knorr, c'era un sacco di merci, dalle auto a tutto, eccetera. Cominciava già negli anni 60 quel processo che poi sarebbe arrivato a maturazione soltanto con gli anni 80, per cui non era più importante, come dire, vendere una merce non significava più vendere un prodotto materiale. Oggi è, come dire, quasi banale, quasi automatico che quando tu compri la pasta Barilla non compri solo della pasta, compri un mondo, compri il mondo del Mulino Bianco, ti immergi per un attimo, consapevole o no, magari lo hai dileggiato fino al momento prima, e hai detto ma guarda che cazzata questa pubblicità in TV, però nel momento in cui tu compri sei preda, cioè compri, cioè quello che si vende non è più, non è tanto una merce materiale quanto principalmente un brand, cioè un mondo collegato con una merce, cioè una concrezione, una particolare configurazione dell'immaginario che ha come, diciamo, risultato quello, come dire, che si costruisce magari filogeneticamente. La genesi del brand è che prima c'era la merce materiale, intorno a quella del brand, poi a poco, diciamo, come dire, naturalmente, come dire, il brand ha finito per avere maggiore centralità rispetto alla merce. Tutti adesso sappiamo che i maglioncini, le magliette, i pantaloncini, le puttanate che compriamo da Stefanelle cioè, hanno ben poco valore in quanto tali. Quello che noi compriamo non è tanto il maglione, è il marchio Stefanel o il marchio, mi viene in mente Stefanel e non il marchio madre, non la cosa madre, insomma, comunque sapete bene che cosa intendo. Per cui anche il ruolo della pubblicità è evidentemente cambiato. Questo, diciamo, in parte era già visibile, nessuno di noi era in grado di vederlo in modo chiaro negli anni, diciamo, 60, ma quello che cominciava già era, insomma, questo. I movimenti studenteschi che cominciarono negli Stati Uniti nei primi anni 60 e che poi si diffusero rapidamente in tutto il resto del mondo industrializzato, quindi Europa e Giappone, ma anche in tanti paesi, diciamo, del terzo mondo non industrializzati, negli anni intorno al 1968, che quindi presero come simbolo e come emblema di questo mondo il 68, erano quindi movimenti certamente interni alla scuola, ma che della internità alla scuola, al sistema scolastico e formativo, all'università principalmente, coglievano già alcuni aspetti, consciamente o inconsciamente, consapevolmente o inconsapevolmente, quindi erano già movimenti non di semplici studenti, in senso come erano gli studenti, diciamo, prima della Seconda Guerra Mondiale, insomma, o ancora negli anni 50 del Novecento. Gli studenti che fecero questi movimenti studenteschi erano studenti più o meno confusamente consapevoli di essere della forza lavoro. Fu la prima volta che nel mondo sviluppato industriale si cominciò a cogliere che c'era un processo che stava trasformando, diciamo, la scuola. E questo spiega per esempio perché soprattutto in Europa, più ancora che negli USA, questi movimenti si ponessero abbastanza rapidamente, cioè dopo un anno o due di vita, si ponessero il problema di collegarsi con i veri movimenti dei veri lavoratori, cioè di quelli che già, insomma, lavoravano. Non solo perché certamente si identificava un, come dire, nemico comune, che era il capitalismo, insomma, ma anche perché in qualche modo si subodorava, si fiutava, si intuiva, anche se non si comprendeva sino in fondo, una omologia strutturale, una somiglianza strutturale, o perlomeno una somiglianza o una analogia di destini. Cioè, anche noi che oggi siamo studenti e non produciamo nulla di concreto, o sembra che non produciamo nulla, in realtà siamo destinati a diventare come voi, magari ad un livello un po' diverso. Certamente, diciamo, lo studente che nel 1968 a Valle Giulia combatté contro la polizia, diciamo, riuscendo per la prima volta ad avere addirittura una vittoria militare, come avvenne negli scontri di Valle Giulia del marzo del 68 a Roma, quello studente magari era destinato a diventare non certo un operaio, magari un capo del personale, quindi apparentemente stava dalla parte opposta, però in qualche modo comunque non sarebbe finito a fare automaticamente il professore o il, come dire, dirigente d'azienda o come l'intellettuale o l'avvocato, ma sarebbe entrato in fabbrica prima o poi anche lui, cioè, certamente, ripeto, magari non a fare l'operaio, insomma, anche se poi succedeva che poi spesso, adesso ora la situazione adesso è molto molto diversa, insomma, perché uno sapete benissimo che ci sono fior di laureati anche con due o tre lauree, dottorati di ricerca, specializzazioni brillantissime che, diciamo, di lavoro rispondono ai call center. Questo uno può dire, però che bel modo di spiegare, però così è, questa è la situazione attuale. All'epoca non era proprio così, però ci si stava preparando a poco per questo, insomma, in qualche modo. Bene, spiegavo nell'ultima, diciamo, lezione che questi movimenti si divisero in realtà ben presto secondo due linee, secondo due filoni fondamentali, due punti di vista, due filosofie di vita differenti, diverse, insomma, che furono queste, diciamo. Da un lato un'ala, chiamiamola virgolette, che io chiamo, insomma, politica, cioè un'ala che intanto privilegiava, diciamo, da un punto di vista dell'analisi, in grande maggioranza queste componenti facevano riferimento al marxismo, insomma, a un marxismo anche confuso, anche ibridato, però, come dire, marxismo, e quindi avevano una visione abbastanza rigida dei rapporti tra la struttura economica e la sovrastruttura culturale, e privilegiavano la struttura economica. Il punto di vista di tutti questi movimenti erano, perlomeno dal punto di vista delle loro componenti, diciamo, più coscienti, quelle più impegnate, quelle che possiamo definire maggiormente d'avanguardia, erano tutti considerabili, virgolette, rivoluzionari, cioè volevano tutti fare una rivoluzione, cioè operare un cambiamento, come dire, rapido, discontinuo e per certi versi anche violento, cioè magari non intenzionalmente violento, ma si dava per scontato che la reazione della classe dirigente avrebbe portato comunque a uno scontro violento, secondo i modelli delle rivoluzioni classiche dal 600-700 in poi, di quella inglese del 1670, non mi ricordo, sono quella di Cromwell, a quella francese dell'89, a quella russa del 1917, a quella cinese del 1950 e all'ultimissima che era appena avvenuta, che è quella cubana del 58-59. Quindi una rivoluzione, una rivoluzione che riguardasse principalmente la struttura, quindi come da allora, scelta, come dire, rivoluzionaria, primo. Secondo, priorità della struttura economica sulla sovrastruttura. E quindi terzo, teoria dei due tempi. Cioè, prima, diciamo, queste ali politiche in gran parte, in grande, maggioranza, teorizzavano che prima di poter cambiare davvero la vita quotidiana si sarebbe dovuto prima trasformare la struttura economica. Una volta trasformata la struttura economica, una volta fatta una rivoluzione, socialista, perché le ideologie, cioè, c'erano delle componenti anche anarchiche, per esempio, in questo movimento, ma la gran parte erano marxisti, comunque sia marxisti che anarchici, non facevano altro che prendere due, teorie rivoluzionarie sorte nell'Ottocento, sviluppatesi nell'Ottocento, e che erano una delle quali, quella marxista, era quella che aveva dato vita alle tre grandi rivoluzioni degli anni del Novecento, cioè quella russa, cinese, cubana, insomma. Quindi, insomma, allora, i punti erano quindi tre, insomma. Abbiamo detto priorità della struttura economica sulla sovrastruttura, culturale, necessità di una presa del potere violenta, anche se magari non intenzionalmente, ma che sarebbe di fatto risultata violenta da parte del proletariato, e quindi necessità di una alleanza tra le componenti studentesche e quelle più direttamente operaie. Questa era l'ala, virgolette, politica, la quale nei primissimi anni della cosiddetta contestazione studentesca si trovò fianco a fianco con un'altra componente che all'inizio non sembrava neanche così diversa, ma che a poco, cioè nel giro di pochi anni si andò precisando, è quella che possiamo chiamare la componente controculturale o underground, quindi l'altra. Quindi, allora, da un lato c'era l'ala politica, dall'altro c'era l'ala che io chiamerei controculturale o underground. Qual era l'atteggiamento fondamentale di questa seconda componente, chiamiamola controculturale o underground, nei confronti entrambe queste componenti erano, virgolette, rivoluzionarie, ma la componente controculturale o underground era molto più interessata, a una dimensione che di per sé non era proprio esattamente quello che Marx aveva definito sovrastruttura, ma che l'ala politica accusava di essere sovrastrutturale, e cioè la vita quotidiana. Anche gli underground volevano praticare o costruire una rivoluzione, ma la componente controculturale o underground non vedeva la rivoluzione come un gesto, come una particolare prendo il potere, ci metto un giorno, un mese, una settimana, però è una cosa breve che avviene, dopodiché prendo il potere e poi dopo comincia. Per loro, cioè, questa era nella visione anche un po' ingenua, molto ingenua, da parte dell'ala politica, il modo di vedere la rivoluzione. L'underground invece, il fricchettone, tanto per intenderci, così poi si chiama il freak in inglese, poi diventa il fricchettone, in italiano. I freaks pensavano alla rivoluzione come a qualcosa di molto più lungo, a un processo più lungo, e che doveva investire non tanto le strutture economiche e politiche, quanto il comportamento quotidiano della gente, cioè come la gente si comportava nella vita quotidiana, quindi qualche cosa che i virgolette politici avrebbero chiamato sovrastrutturale e non strutturale. In America questa separazione nel 68 era già bella ricompiuta, perché il movimento in America si è sviluppato fin dai primi anni 60, quindi qualche anno prima che in Europa. Nel Free Speech Movement, nel movimento per la libertà di parola sviluppatosi a Berkeley fra il 63 e il 1963 e il 1964, queste due componenti erano ancora indistinguibili, erano ancora insieme, fianco a fianco, non sapevano neanche di essere due componenti diverse forse, ma già nel 66-67 erano due punti di vista, due ali diverse. Da un lato c'era la SDS, Students for Democratic Society, un'organizzazione di tipo, virgolette, politico americana, studentesca, però politico, dalla quale si sarebbe successivamente sviluppata addirittura come in Europa un'ala, diciamo, terroristica che praticava la lotta armata, che erano gli Weathermen. Quindi questa è l'ala politica, diciamo, negli USA. Dall'altro quello che si chiamò di lì SDS, Students for Democratic Society, da cui poi l'ala più radicale, già alla fine degli anni 60, sviluppò un'organizzazione chiamata Weathermen, cioè gli uomini, i meteorologi, sarebbe così, ma insomma, però era solo uno pseudonimo, perché però vennero messi tutti in galera, insomma il terrorismo, diciamo, la lotta armata ebbe vita breve negli USA, un po' più lunga in Europa. Però insomma era molto simile, insomma gli Weathermen erano l'equivalente delle nostre Brigate Rosse, più, erano un po' meno stalinisti di loro, ma insomma o della Rotarme fazione tedesca. Mentre dall'altra parte c'erano quelli che si sarebbero chiamati rapidamente gli Hippies. Gli Hippies derivava anch'esso dal nome di un partito, addirittura quindi si erano chiamati partito, ma l'uso del termine partito era terribilmente ironico da parte di quest'ala, no? Nel 1965-66, adesso non mi ricordo l'anno insomma, preciso, due tra i principali esponenti di questa corrente, che erano Jerry Rubin e Abby Hoffman, Jerry Rubin è famoso, Jerry Rubin è famoso per aver scritto un libro dal titolo, due libri, uno dal titolo Do It, Fallo, e l'altro ancora più bello che era Ruba questo libro, il libro si chiamava Ruba questo libro, quindi veniva, come si dice, i librai venivano. Ora la gran parte di questi libri li sta ripubblicando la casa editrice Mimesis, non faccio propaganda. Vabbè, sai, quello per più lavoro, abbiamo depurato sia Do It, sia Ruba questo libro, eccetera. Comunque, i librai esponevano questo libro con una certa paura, perché ovviamente il libro nel suo titolo invitava il pubblico a non comprare il libro stesso, ma a rubarlo. E l'altro era Abby Hoffman. E fondarono una buffa cosa chiamata International Youth Party, Partito Internazionale della Gioventù, dal quale come acronimo uscì fuori con un altro avanti, insomma, la parola hippie. Hippie però comunque poi ricordava anche il sostantivo hipster, quindi c'era lo hip, quello che poi sarebbe diventato insieme con Hop, un genere musicale, ma insomma, diciamo, lo hipster negli anni 50 era una specie di snob culturale, era l'equivalente un po' del flaneur di Sparigino, insomma, del passeggiatore fantasioso parigino, quindi una insomma, figura di consumatore e produttore culturale non convenzionale, insomma, lo hipster. Era una cosa che usavano cioè in larga parte era stata la cultura musicale che aveva formato questa cosa, insomma, in particolare qua dietro c'è l'influenza della musica jazz, insomma, lo hipster. Hipster è un termine, diciamo, intraducibile, infatti, che non so, allora c'era hipster, allora c'era questo tipo di cosa qua. Allora, quali erano certo, non c'erano delle tesi, certo, Jerry Rubin, Ebony Hoffman e altri scrivevano anche dei libri, come ovvio, insomma, quindi, però insomma era più un insieme di, diciamo, di comportamenti, di gruppi, di diciamo, persone. L'idea degli hippie era quella, appunto, che la rivoluzione fosse un processo continuo e non un evento singolare, che dovesse riguardare la vita quotidiana, e soprattutto che non si potesse trasformare la società, neanche le basi economiche della società, se non c'era un cambiamento di mentalità. E questo cambiamento di mentalità ovviamente aveva una componente collettiva, ma aveva una base individuale, cioè doveva nascere in primo luogo da un riorientamento individuale del singolo. Poi il singolo diceva, cazzo, sono stufo di vivere, mi fa schifo sta vita, non voglio più mettere la cravatta, voglio mettere un'altra cosa, voglio vestirmi diverso, non voglio più, e quindi insomma sapete bene tutti quali furono i simboli sui quali operavano, per esempio i capelli, insomma, no? Quindi allora la lunghezza dei capelli era, adesso fa insomma ridere, non ci fa più impressione vedere un maschio che porta i capelli lunghi, ma vi assicuro nei primi anni 60 in Italia la comparsa di esseri umani giovani di sesso maschile con i capelli lunghi quando era donna era fu un vero shock culturale per tutta la popolazione, per tutta l'Europa, fu così, ma in gran parte anche per gli Stati Uniti, insomma, in quel periodo lì. E questa fu una delle prime cose, quindi il modo di vestirsi, insomma, tutta una serie di cose, capelli, vestiario, eccetera, eccetera. E naturalmente anche però cose anche più corpose, insomma, quindi per esempio questa era gente, insomma, che se ne andava di casa, se ne andava via abbastanza giovane e andava a vivere in grandi case quando le si trovava, a volte anche pagando l'affitto, a volte non pagandolo, quindi occupandole, ma in cui vivevano insieme decine di persone, insomma, quindi le cosiddette comuni, cioè quindi allora c'era una. Allora, tutta questa ala, diciamo l'ala controculturale, insomma, la vera, come dire, diciamo, differenza con l'altra ala era sulla questione dei, diciamo, tempi. L'ala politica diceva prima la rivoluzione socio-economica e poi la rivoluzione, diciamo, culturale. Gli hippies dicevano no, prima la rivoluzione culturale e poi la rivoluzione socio-economica, e tutti e due dicevano senza l'una, cioè senza la nostra priorità, non si può ottenere l'altra. È ovvio che anche in Europa le cose vanno così, anche in Europa negli anni fra il 67, 68, 69 al massimo le due tendenze coesistono, ma poi rapidamente si separano. Nel 68 negli USA erano già belle che separate. E quindi naturalmente, diciamo, dal punto di vista delle tattiche di lotta, alcune tattiche erano comuni, anche sugli hippie, come dire, facevano dei cortei o facevano delle cose come faceva l'ala politica. Dall'altro canto anche molta della base dell'ala politica, per esempio, adottava degli stili di vita, per esempio la lunghezza dei capelli, o dei modelli di comportamento, per esempio il consumo di droghe cosiddette leggere, principalmente la cannabis, che erano più caratteristiche dell'altro movimento, quindi c'era una mescolanza. Oggi non possiamo più dire che ci sia, oggi diciamo, intanto non c'è più un movimento sociale di quell'ampiezza, cioè i movimenti che ci sono molto più limitati, ovvio. Però c'è comunque una certa separazione ancora oggi tra queste due cose, però certamente alcune cose sono date per diciamo, acquisite, però allora per esempio contro il consumo delle droghe leggere, e poi per non parlare di quelle poi pesanti, ma anche contro per esempio diciamo, la cannabis, ci fu a lungo in Europa in quegli anni un interdetto da parte delle organizzazioni politiche di sinistra, per esempio, quindi quelle dell'ala virgolette politica. Cioè io che facevo parte dell'ala politica e non di quella controculturale, come dire, per esempio la mia prima canna la fumai, che ero già grande, che ero già verso la fine della mia esperienza, perché se no noi militanti politici non fumavamo, insomma, perché lo consideravamo una cosa o piccolo borghese o comunque pericolosa. Tanti politici hanno iniziato a fumare e siamo arrivati a questo punto. Vabbè, no, cioè, le sigarette le abbiamo sempre fumate, diciamo, no, fumare là, fumare altre cose. Siamo arrivati. Va bene, no, ma il fumo di per sé non sa. Allora, è ben chiara questa differenza. Allora, adesso, detta questa diciamo, differenza, cerco di demolirvela subito, perché voglio spiegarmi invece che all'interno dell'ala politica c'erano in realtà alcune componenti che in qualche momento ebbero addirittura maggiore visibilità delle altre, per esempio il maggio 69 francese, in cui questo genere di diciamo, separazione non c'era tanto. Ma tipo tutta la filone culturale americano, controculturale tipo della Big Generation. La Generation non c'entra nulla con questa roba, la Generation sono dei signori degli anni 50, alcuni dei quali fanno non solo un largo consumo di droga, ma sono degli individui principalmente. Cioè, allora, per esempio William Burroughs è una delle persone al mondo che ha provato nella sua vita un numero di droghe impensabile, ha fumato, si è iniettato, ha tutto quello che c'era da diciamo, iniettarsi, no? Però era una singola persona. I Beatniks non sono mai stati un movimento di massa, erano un gruppo di scrittori, no? Sì, però sono un po', non so. Certamente. Allora, per esempio, il mito del viaggio, che molti degli hippies pigliano, lo pigliano da lì, lo pigliano dal testo di Kerouac, diciamo, On the Road, che è un po' l'archetipo di questa cosa, cioè. Però i Beatniks in quanto tali erano l'unico Beatnik che poi ebbe un certo punto di vista fu Allen Ginsberg, certo. Allen Ginsberg perché era omosessuale, poi perché dopo diventò buddista, eccetera, e molta di questa gente, poi molta dell'ala controculturale. Quindi diciamo, i Beatniks rappresentavano più che altro un modello culturale, diciamo, non erano i stessi. Infatti volevo capire che relazione. No, c'era tipo una parte, sì. Come dire, una parte, però non è, cioè c'è una parte sì e una no, non è che direi addirittura, io personalmente tenderei a dire che non è stata l'influenza predominante o quella fondamentale, però una parte delle tematiche, diciamo, suscitate dall'ala hippie, chiamiamola, diciamo, provenivano in parte, diciamo, almeno in parte dall'esperienza della Beat Generation, insomma. No, perché avevo letto qualcosa per interessi personali, anche sui fumetti di Crumb, che comunque quello non c'entra nulla, no, però, okay, però cioè nel senso bravissima, mi adesso sembra che sia tutto un po' collegato, poi Crumb sì, molto di più, certo. Il fumetto e la musica sono due componenti fondamentali del, come dire, movimento hippies. Allora, mentre i beatniks non sono mai stati controcultura, non sono mai stati underground, sono sempre overground. Avranno avuto problemi, cioè come si chiama, Kerouac ebbe qualche problema a pubblicare il suo libro più famoso, On the Road, perché la prima volta che andò a portarlo all'editore, cioè, come dire, l'editore si vide arrivare questo giovane, che peraltro non portava neanche i capelli tanto lunghi, eccetera, era un però parliamo, cioè parliamo di anni prima, parliamo del 57, sì. Quindi parliamo della seconda metà degli anni 50. Questo signor Kiruac arrivò dall'editore con un tubo, con un rotolo di carta, su cui era scritto il suo romanzo. Lui aveva scritto On the Road, questo rotolo di carta è conservato nel museo di Kiruac, ovviamente, perché è una cosa mitica. Cazzo, come ha scritto? Cioè, no, lui non scriveva sui cogli. Un altro grande diciamo, libro della Beat Generation, cioè di uno che è considerato uno degli ispiratori della Beat Generation, ma che è un po' più vecchio di loro, che è William Burroughs, il primo grande libro di William Burroughs, che è Naked Lunch, il pasto nudo, invece è stato scritto a Tangeri, quando Burroughs stava a Tangeri, è scritto in gran parte sotto l'effetto dell'eroina, e non è scritto su un rotolo di carta, è scritto su una serie di fogliacci di carta, tutti unti, sono, diciamo, bisunti, eccetera, perché lui ci faceva di tutto, come scriveva quando era più fuori di testa che mai per via, diciamo, dell'ero, scriveva delle cose, è un libro bellissimo, ma ovviamente non è così di facile lettura, insomma, eccetera, però per me è affascinante, insomma, lo considero uno dei capolavori del Novecento dopo Ulysses di Joyce, quindi anche se la prima volta che lo lessi non ci capì un tubo, dissi che schifezza, lo buttai via, poi 10 anni dopo lo presi, ne ho cambiate tante di cose nella vita, capite anche che adesso la mia storia, io non ho mai fatto parte di quest'ala underground negli anni 60, di tutte cose che ho recuperato dopo. Quindi, vabbè, insomma, e lì però furono Kerouac e Ginsberg, che andarono a trovarlo a Stangeri, fecero un editing di questo mucchio di fogli non numerati, quindi confusi uno con l'altro, eccetera, eccetera, macchiati, sporchi dal cibo al sangue che sprizzava dalla siringa con cui Burroughs si faceva, e lo rimisero insieme e lo portarono, per esempio il pasto nudo uscì, la prima volta che uscì a Parigi, in inglese, ma con Parigi presso un editore che faceva pornografia, che è la Olympia Press di Giro Dias. Allora, quindi, insomma, diciamo, capite, certo, c'erano, uno può dire, in parte gli stili di vita di questa gente erano, come dire, potevano essere considerati un antenato, però loro non erano hippies in quanto tali. Quando poi scoppiò il movimento degli hippies, nessuno di questi ne fece parte, ripeto, tranne però secondo l'eccezione di Ginsberg. Ferlinghetti e Corso, che erano i due poeti, quelli facevano più poesia, anche Giorno, sì. Quelli che stavano nell'ala ovest, nell'ala in California, insomma, mentre per esempio Burroughs e Kerouac venivano dalla parte est. Questi qua ebbero maggiori coinvolgimenti, ma il movimento in quanto tale era un'altra cosa, aveva preso qualche cosa da loro, certo, ma non. Invece, ripeto, musica e fumetto sono stati, però erano due cose diverse, musica e fumetto era veramente underground. Allora, chiudo con il ragionamento. Una volta superato lo schifo per le pagine imbrattate di uovo sodo dell'altro, di Burroughs, o del rotolo, una volta superato questo, la Beat Generation pubblicava libri presso i normali editori, quindi presso gli editori overground, non underground. Viceversa, invece, una parte della produzione musicale di quegli anni, di questo so meno, però quindi non posso dirvi tanto, ma sul fumetto mi sento di più. Il fumetto underground, l'underground comics, si può considerare una delle componenti del movimento. Cioè, Crumb faceva più o meno la vita degli hippies. Crumb, anche come si chiama, quello dei Freak Brothers, Gilbert Shelton, che ha fatto i tre Freak Brothers, cioè Mr. Natural, i Freak Brothers, eccetera. Ma Crumb, no, detto che c'è Crumb, sì. Allora, insomma, adesso Crumb, Shelton, insomma, poi, diciamo, ce n'erano tanti altri. Quella era veramente una. Il fumetto fu una delle. Allora, per esempio, diciamo, lo stile, diciamo, di Crumb, che è anche dal punto di vista formale, no? Se voi avete presente sui suoi fumetti, è una polemica contro la tradizione diciamo, sia del fumetto, proprio come modo, diciamo, di disegnare, no? Sia del fumetto di supereroi, sia del fumetto d'autore europeo, d'autore più o meno, insomma, pensiamo a Hergé, pensiamo a, insomma, Tintin, no? Sì, sì, sì. Ecco, la cosiddetta ligne claire, cioè fai una linea sottile, personaggio. Crumb disegna con dei pennarelloni grossissimi, però, e fa un tratto grosso, no? Tutti i suoi, sia Mr. Natural che Fritz the Cat, che gli altri sono tutti. E poi Fritz the Cat è proprio un, come dire, vedremo, insomma, proprio un détournement, cioè come dire, prende alcuni archetipi del fumetto per i bambini, quindi che poi deriva dalle favole di Esopo, insomma, no? Gli animali che parlano. E invece di fare Mickey Mouse, che è un Walt Disney politically correct, che è bravissima, la sua fidanzatina, ama le istituzioni, difende i cittadini, fa un gatto cattivissimo, stronzo, anche Prince Cat è stronzissimo, cioè non è uno di cui ti puoi fidare, dice, cazzo, no, è assolutamente uno, quindi è, diciamo, inaffidabile dal punto di vista dello stile di vita, eccetera, anche cattivo, stronzo come personaggio, proprio, insomma, che no, e ne fa però l'eroe di questa cosa. Chi ha visto solo il film lo ha sminuito tantissimo, è cioè, sbiadito, diciamo, non è il vero Fritz, no. No, il vero Fritz Cat, diciamo, di campo, Fritz Cat è uno stronzo, ma stronzo come Dio comanda. Ecco, allora quello sì, diciamo, l'Underground Comics è una c'è una tendenza da parte dell'underground americano, ma devo dire però soprattutto europeo, a dare una continuità, cioè a costruirsi, come dire, a completare un po' questo quadro che ho detto prima, quindi cambiamento della vita quotidiana, cambiare la mentalità e il modo di vita prima di cambiare la struttura economica, sociale, politica, tutto questo ha una conseguenza, diciamo, uno spin-off, insomma, una conseguenza nella nascita di strutture di produzione anche indipendenti. Questo però vale soprattutto per l'Europa, per gli USA per esempio questo vale molto per i fumetti, certo. Allora, nel campo americano, Crumb, Shelton e gli altri pubblicano prevalentemente non sulle riviste ufficiali del fumetto americano, che poi all'epoca era prevalentemente un fumetto di supereroi, quindi c'erano le due grandi case editrici, DC Comics e Marvel Comics, perché proprio c'erano questi supereroi, e poi una serie di altre robe di fumetto d'autore, tipo Spiegelman, cioè c'era Rogue, c'erano le cose sulla East Coast, tutto bene. Il fumetto underground schippa entrambe queste, insomma, supera entrambe queste componenti, cioè il fumetto commerciale, diciamo, di supereroi, e il fumetto raffinato, che c'era anche in America, c'era più in Europa, ma c'era anche in America, che si può chiamare fumetto d'autore, insomma, diciamo Spiegelman è uno dei miei Spiegelman, ma anche, non so, Pfeiffer, anche gente così, insomma. E invece si fanno delle case editrici per conto loro, delle, diciamo, riviste per conto loro, poi certo c'è una contaminazione a un certo punto con il mondo con il fumetto colto, diciamo, del fumetto d'avanguardia, però tutto parte da una base produttiva anche più o meno solida, e riescono a vendere, si diffondono, eccetera, non è una roba, diciamo, stentata, ma soprattutto poi le auto come delle produzioni valgono soprattutto per l'Europa, insomma. È nei paesi europei, soprattutto in Germania e in Italia, ma anche in Inghilterra, che l'autoproduzione musicale e fumettistica si è sviluppata di più, insomma. Per una serie di motivi, comunque, ripeto, musica e fumetto rappresentano già delle, più che la letteratura, più che la, diciamo, scrittura in quanto tale. Quindi la tua domanda era, diciamo, era come dire corretta, ma più riferita a queste due forme espressive che non alla letteratura. Poi certamente i beatniks erano l'espressione degli stessi processi sociali che diedero luogo a questa cosa, quindi ovvio che c'era una, però, insomma, ripeto, non è che, anche se poi a volte il termine beatnik poi dopo è stato usato anche per indicare almeno alcune delle componenti, come dire, del movimento hippies, insomma, no? Allora, dopo tutta questa lunga cosa, in realtà forse la volta scorsa non ho detto proprio questo, quindi è meglio, perché così l'ho fatta già lunga. Allora, detto questo invece, su questo sarò più breve, perché su questo ho già parlato la volta scorsa, allora, voglio dire, però, ora volevo individuare all'interno dell'ala che ho chiamato politica, diciamo tradizionale, del movimento, quelle componenti, e c'erano e ci furono, che in realtà, come dire, erano già un tentativo di superamento di questa, diciamo, dicotomia, o meglio ancora, detto in altri termini forse più storicamente corretti, che facevano un uso deliberato e cosciente di una serie di strumenti espressivi nati nell'altra componente. Perché, piccolo passo indietro, la cosa che va, una delle conseguenze di questa divisione, di questa duplicità di linee all'interno dei movimenti di contestazione, riguardò le tattiche di lotta, le tattiche della lotta, le tattiche della battaglia, diciamo, politica. Allora, certamente, ripeto, c'erano alcuni strumenti, alcune occasioni di lotta che erano, diciamo, comuni. Nei cortei si andava sempre, negli Stati Uniti, siccome fin dai primi anni 60 c'era, gli Stati Uniti erano impegnati nell'ultima loro grande guerra coloniale, quella in Vietnam, e gran parte di questo movimento si oppose, e anche se non nacque, ma si impegnò rapidamente gran parte dell'attività dei movimenti di opposizione politica negli USA e in Europa nel corso degli anni 60 e primi anni 70, fu, diciamo, la lotta contro l'impegno americano in Vietnam a fianco del popolo vietnamita. Allora, i cortei ci andavano tutti, ci andava l'IPI, ci andava la politica, eccetera. Però, per esempio, dal punto di vista della comunicazione politica, le differenze erano radicali. L'ala che io ho chiamato politica aveva una comunicazione molto più tradizionale, volantini, opuscoli, riviste, cose scritte, analisi, no? Sembrava di leggere Marx o Lenin o Trotsky, eccetera, aggiornati all'epoca contemporanea, ma, allora, compagni, analisi, il capitalismo americano è impegnato in una lotta imperialista contro le grandi multinazionali, bla bla bla, eccetera, la classe operaia deve fare questo e quest'altro, gli studenti devono fare questo e quest'altro, punto. Domani, manifestazione alle ore tali, appunto, firmato, chiuso, sulla data di Society. No. Gli hippie adottarono sino dall'inizio uno stile, delle modalità di comunicazione, che si può dire politica, ma totalmente diversa da quella. Preoccupazione della componente hippie del movimento fu quella di destrutturare alla base le forme della comunicazione politica, il linguaggio della comunicazione politica. Non troverete mai, o troverete molto meno, nella produzione, ripeto, sia americana, nordamericana che europea, della componente hippie, non troverete quasi mai, diciamo, il saggio politico o la comunicazione politica tradizionale consistente in una analisi, l'elencazione di obiettivi e poi gli appuntamenti politici. No, troverete sino dall'inizio una comunicazione politica che tendeva a destrutturare la forma. Vi farò un esempio, l'ho già fatto l'altra volta, ma ve lo ripeto qua volentieri, che non riguarda la scrittura, ma che è sempre una questione di comunicazione politica, fu la grande manifestazione che l'International Youth Party, cioè il partito di Hoffman e Rabin, convocò, credo nel 66 o 67, contro la guerra nel Vietnam intorno al Pentagono, ma in questo caso furono solo loro, cioè fu solo l'ala underground che fece questa manifestazione. In che cosa consistette questa manifestazione? Consistette nel fatto che centinaia di migliaia di hippie si radunarono a Washington attorno al Pentagono, che sta, penso, sulle rive del Po, ma che eccetera, sulle giudiche che ha circondato grandi prati, e questi qui si misero tutto intorno ai prati. E qual era l'obiettivo della manifestazione? Vi prego di non ridere, era di stare tutti lì fermi e concentrati per fare in modo che il Pentagono si alzasse la terra, levitasse e se ne andasse via. Allora, io trovo questa una idea geniale, cioè è una cosa bellissima. Ovviamente nessuno, neanche loro, nessuno era così stupido da pensare che il Pentagono si levitasse davvero, ma era il modo in cui era stata, hai capito? Cioè, quindi noi vogliamo, basta, il Pentagono andare via, vogliamo il socialismo, un cazzo, vogliamo che il Pentagono si alzi e, come dire, se ne vada. Era una manifestazione del genere, voi insomma capite, realizzava già nel momento in cui fai la manifestazione, realizzi uno degli obiettivi, cioè vivi in un modo diverso, stai lì e metti, come dire, certo è l'occasione per dire ci troviamo in 300.000 quanti erano intorno al Pentagono, ci facciamo le nostre canne, scopiamo, facciamo tutto quello che ci pensiamo di fare, eccetera, eccetera. Però contemporaneamente il fatto di avere, come dire, insomma, di avere realizzato una, il fatto di, ecco, allora, in questa, come dire, manifestazione, l'enunciazione dell'obiettivo corrisponde con la pratica dell'obiettivo, anche se poi quello non si alza, insomma, no? Allora, nella comunicazione politica tradizionale, di destra, di sinistra, che sia, l'obiettivo è una cosa, la sua enunciazione un'altra, la pratica verrà dopo, chissà quando ci avverrà. Nel punto di vista controculturale, l'enunciazione deve coincidere con la pratica dell'obiettivo, cioè nel momento in cui tu dici qualche cosa la devi fare in qualche modo, devi essere in grado di, diciamo, come dire, insomma, realizzarla. Per tornare al fumetto, gran parte del fumetto underground è direttamente politico, ma perché è diventato politico? Perché mette in scena, per esempio, i tre fratelli, i Freak Brothers di Shelton, fatti come dei copertoni, che con i capelli così, che vanno in giro, è quello che fanno nel fumetto che costituisce, non enunciano nulla, non dicono vogliamo vivere, no, loro ci fanno già vedere come vivono già in quel modo lì, insomma, no? Quindi certamente c'è di mezzo, come dire, il filtro di uno come strumento espressivo, no? Insomma, che è il fumetto, però nel fumetto succede così, e idem, come dire, Precious Gatto, insomma, e praticamente questo si può dire per la grande maggioranza del fumetto underground. Va bene. Allora, detto questo, bisogna dire però che alcune componenti molto minoritarie del marxismo internazionale si distaccavano già per conto loro da questo ritratto che io vi ho fatto della comunicazione politica tradizionale. E queste componenti erano delle componenti che venivano non a caso da esperienze artistiche degli anni 50 o dei primi anni 50, quindi, e che però già alla fine degli anni 50 avevano maturato un distacco radicale dagli ambienti dell'arte, o sempre più radicale, e, come dire, utilizzavano direttamente modalità, diciamo, virgolette, artistiche al servizio, per così dire, di un progetto politico. Il nome di questa concorrenza è situazionismo, si chiama. Questa è l'internazionale situazionista. L'internazionale situazionista nacque formalmente nel 1958 in un paesino italiano, fra l'altro, però già il nome che si era scelto, internazionale, ricordava l'internazionale situazionista, ricordava il nome delle organizzazioni politiche del movimento operaio dell'Ottocento, la prima internazionale era stata fondata direttamente da Marx e da altri negli anni dopo i moti del 1848, poi c'è stata la seconda internazionale che era una trasformazione della prima, eccetera, e poi la terza fondata da Lenin e Trotsky dopo la vittoria della rivoluzione d'ottobre. E poi c'era la quarta trotskista, ma che non contava un cazzo perché non è mai esistita davvero. Allora, l'Internazionale Sezionista, loro la fondano nel 58, ma in realtà l'Internazionale Situazionista è la fusione di tre movimenti diversi che venivano tutti e tre dall'esperienza artistica. Uno è l'Internazionale Lettriste, l'Internazionale Lettrista, da cui veniva il principale teorico dell'espressionismo, che è Guy Debord, l'Internazionale Lettriste, quindi diciamo il movimento lettrista. In realtà in quel momento lettrista era stato fondato da un rumeno che viveva a Parigi, che si chiamava Isidore Risu, ma lui aveva fondato il movimento chiamato lettrista. Debord aveva fatto parte per un breve periodo del lettrismo, poi si era staccato e aveva fondato lui qualcosa chiamata Internazionale Lettrista. La seconda componente si chiamava Movimento Internazionale per un Bauhaus immaginista, International Movement for an Imagist Bauhaus. E come capite bene dall'uso del termine Bauhaus, era prevalentemente un movimento di architetti che però contestava il razionalismo della Bauhaus e quindi usava il nome solo per prenderlo. International Movement for an Imagist Bauhaus. E la terza componente, che in realtà diciamo non esisteva ma serviva più che altro solo per il nome, era una roba chiamata London Psycho Geographical Committee, Comitato Psicogeografico Londinese. In realtà il MIBI e una parte di questo London veniva in realtà da un movimento ancora precedente chiamato Cobra, che era un gruppo di artisti che venivano da tre diverse città dell'Europa, le cui iniziali fanno il nome: Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam. Dentro a questo gruppo Cobra c'erano due personaggi abbastanza importanti, che erano il pittore danese Asger Jorn e l'architetto olandese Constant Nieuwenhuis, che però poi si tolse il cognome e si firmò da quel momento in poi quasi solo Constant. L'Internazionale Lettrista era principalmente rappresentata dal signore che poi diventerà, insomma, e fino dall'inizio fu l'anima dei situazionisti, che era Guy Debord, francese, e a questi si aggiunsero diversi pittori italiani, tra i quali per un brevissimo periodo di tempo anche Enrico Bai, che però se non lo era molto giovane, se non via subito, ma principalmente fu Pinò Gallizio, Giuseppe Pinò Gallizio. A queste persone si aggiunse poco dopo un belga, che si chiama Raoul Van Aargen, che è ancora vivo, e che è importante perché in realtà insieme a Guy Debord fu uno dei pochi che scrisse dei libri che firmò con il suo nome. tutte queste persone che ho scritto sulla, diciamo, che ho scritto sulla lavagna, da Pino Gallizio, ad Arthur Jorn, a Constant e anche lo stesso Van Eyckham, in realtà vennero negli anni seguenti espulse tutte dall'internazionale situazionista a opera di De Boer. Storia che conosciamo bene perché praticamente la stessa storia del movimento surrealista in cui Breton praticamente cacciò fuori tutti, uno dopo l'altro, tutti quelli che gli insomma, facevano. Passano 10 anni tra l'anno della fondazione dell'internazionale situazionista che è il 58 e il 68. E nel 68 a Parigi troviamo nel comitato di agitazione della Sorbona, che è quello che in cui avvennero insomma, gli eventi fondamentali di quell'anno e di quella notte, troviamo una grande influenza situazionista. Gli situazionisti erano nati come gruppo, diciamo, di artisti e poi trasformatisi più o meno in organizzazione politica, ma in realtà del gruppo di artisti conservarono sempre una cosa, e cioè l'esiguità del numero, cioè i militanti situazionisti in tutta Europa non furono mai più di alcune decine. L'unico italiano fu un tale, mi sembra Gianfranco, si chiamava Sanguinetti, con due T, da non confondersi con l'omonimo poeta italiano, che non c'entra nulla, lui è sempre stato del PC. Ma c'è questo che però scrisse anche lui un libro una volta, il cui libro più importante in realtà fu un libro pubblicato anonimo negli anni 70, quindi molto tempo dopo, che si chiamava Berlinguer e professore, che è un libro molto bello, una satira politica, un finto cartello politico tra due che però violentemente anti-PC da sinistra, insomma, ovviamente da destra, eccetera. Ma in che paese? In che paese? È successo questo internazionale? Cioè, vabbè. Il paese si chiama Cosio da Rosta. È in provincia di Siberia. Così, giusto. Ma comunque, tutte cose che trovate, andate su Wikipedia, tutte cose quale trovate. Cosio da Rosta. Ma semplicemente perché è sopra al Pistola. Perché praticamente era in casa di Pino Gallizio, tutto avvenne in casa di Pino Gallizio, in pratica insomma. Ma erano, c'è cioè, insomma la foto dei stazionisti, sono 8 persone in tutto, 8-9 persone. Quando poi c'erano uno di un paese, dicevano, abbiamo fatto la sezione algerina, era uno, faceva la sezione algerina, perché c'avevano questa logica qua. Ed erano molto precisi, c'è molta gente che si è considerata simpatizzante dell'internazionale, ma l'internazionale non li ha mai riconosciuti come membri diciamo ufficiali. I membri sono sempre stati pochissimi, però tra membri ufficiali e simpatizzanti diciamo l'episodio che spiega un po' questa cosa avvenne per una serie di diciamo di eventi abbastanza casuali nel 1967 a Strasburgo, e cioè in una città francese, come tutti sapete, al confine con la Germania, quindi in una zona bilingue della Francia, parla franco-tedesco, eccetera. Per una serie di motivi fortuiti e anche fortunati, forse si potrebbe dire, alla metà del insomma, durante il 1967, due personaggi, entrambi credo simpatizzanti, neanche militanti, o forse uno militante e uno simpatizzante, dell'internazionale situazionista, si trovarono a far parte dell'organismo rappresentativo degli studenti, una roba tipo la consulta studentesca, tipo oggi. Non c'erano ancora stati in Europa i grandi movimenti studenti, quindi c'erano ancora questi organismi che poi ovviamente il 68 spazzerà via, sono stati ricostituiti solo molti anni dopo. Ma all'epoca c'erano ancora questi. Approfittando di questo fatto, questi due studenti fecero passare all'interno del Consiglio studentesco, insomma, una richiesta di finanziamento all'università per editare, per pubblicare una guida per gli studenti di Strasburgo ai corsi, una roba di questo tipo. L'università gli diede i soldi, ma naturalmente queste due persone non pubblicarono affatto questa guida del Duomo, ma pubblicarono invece un pamphlet politico molto noto che si chiamò De la misère dans l'environnement étudiant, della miseria nell'ambiente studentesco, e che fu praticamente uno dei primi atti del 68 europeo. Naturalmente quando i funzionari dell'Università di Strasburgo videro questo cosa si incazzarono come delle iene, però ormai il guaio era fatto, l'opuscolo era stato distribuito a migliaia di copie a tutti gli studenti, i quali leggevano in questa prosa tagliente, cattivissima dei cogitazionisti, tutte le schifezze peggiori possibili contro la scuola, contro il capitalismo, contro tutto quanto, quindi una cosa di agitazione politica. Allora, nel 68 i simpatizzanti dei situazionisti si trovarono presenti in forze nel comitato di agitazione e nell'assemblea degli studenti della Sorbona e influenzarono in gran parte uno dei leader più conosciuti del 68 francese ed europeo, che all'epoca, adesso è un tranquillo signore, ma all'epoca era uno piuttosto cattivello, che era un tedesco, tra l'altro, uno studente franco-tedesco, ebreo-tedesco, che si chiama ancora Daniel Combendi. Adesso Daniel Combendi è uno dei leader del Movimento dei Verdi in Europa e ha delle posizioni abbastanza moderate, insomma, nulla a che vedere col suo passato studentesco. Ma all'epoca Daniel, detto Daniel Rouge, Daniel Rosso, era un anarchico e Daniel, sapete come si scrive? Sì. Con, Cassino, il quale venne espulso a un certo punto addirittura dalla Francia, da Parigi, perché effettivamente lui era figlio, credo, vedete che c'ha due cognomi, due Con, perché Con è internazionale, è un cognome ebreo, ma è di parte tedesca, invece Bandi viene da francese. Comunque lui non era cittadino francese, ma cittadino tedesco, quindi venne espulso con grande casino. Allora, per esempio, il movimento tedesco coniò lo slogan che gridammo ogni tanto anche qua in Italia, ma in francese, che è Nous sommes tous des juifs allemands. Siamo tutti degli ebrei tedeschi, non sommes tous des juifs allemands, non sommes tous des juifs allemands, viene bene, ritmato, scandito, ma in italiano non poteva venire bene, siamo tutti degli ebrei tedeschi, non viene così bene, no. Cioè, come se ne cade più continua le combat, che è lo slogan più famoso della storia, cioè anche quello non si può tradurre perché il ritmo è perché il francese ha molto più parole tronche dell'italiano, l'italiano è una pessima lingua per quegli slogan perché ha poche parole perché ha poche parole tronche, non si riesce a fare come è una pessima lingua per fare i testi della musica rock, è perché c'ha parole piane, drucciole, bisdrucciole lunghe 5 sillabe, che cazzo fai con Imagine of the People, non, cioè, immagina tutta la gente, già uno gli cascano per terra, insomma, no? Che dobbiamo fare, così è. Smoke on the water, fumo sull'acqua, cioè, fa schifo, insomma. Però in Brasile c'è questa tendenza a cambiare ciò che c'era anche qua in Italia negli anni 60, cioè a tradurre le canzoni, a fare le cover nella lingua. E fanno ricerche divertentissime. Va bene, perché il brasiliano è una lingua più, da questo punto di vista, è più divertente dell'italiano. No. Sì, ma come farebbero ridere in italiano? Sì, fanno ridere anche là. Sì, certo, molto ridere. Dai, i francesi anche. Cioè, c'è un album intero di come si chiama? Il Duca Bianco. David Bowie tradotto in portoghese. David Bowie tradotto in portoghese. Cioè, tipo Ziggy Play Guitar, quella fa veramente ridere, cioè merita di essere sentita per... Dancing in the Street, cioè, no? Cioè, l'ho sentito e non ce l'ho, non so reperirlo, però fa veramente... Anche tipo Nakin Heaven Store è una cosa super spassosa. In brasiliano, sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, d'altra parte forse anche ragazza di Ipanema in inglese forse non sarebbe... No, perché ci hanno fatto la versione. Fatto, infatti, però, l'ho detto apposta perché so che c'è una Ipanema di... Ma c'è anche in italiano, eh? Io la prima volta che ho sentito ho detto in italiano. Beh, però funzionano secondo me brasilianamente, cioè tipo anche sì, la banda. Perché, sì, sì, la... come si chiamava? Ce n'era una perché, ce n'è una che ha fatto Mina, brasiliana, che era... Ah, è quella lì. Ah, no, è un'altra... Moliendo caffè. Ah no, quello è però spagnolo, non è brasiliano. Non so, ce n'era una, ce n'era la banda. La banda è quella, la banda, sono sì, figlio sì. Unico, certo. Però già si presta di più. Cioè, veramente quelle rock inglesi tradotto in italiano o... Vabbè, ok, sappiamo, così è, così è, così è. Questa era una parentesi. Va bene, diciamo, gran parte, allora, se gli slogan del maggio francese, più che quello di altri 68 italiani, sono slogan, come dire, particolarmente incisivi, fantasiosi, infatti sono rimasti in gran parte nelle, cioè più che quelli di altri 68, più che di, cioè, da un punto di vista politico il 68 italiano forse possiamo dire che è più importante, è stato più importante di quello francese, perché è stato più lungo, è stato più ampio, quello francese è stato molto concentrato, però è in quella occupazione, in quei 2-3 mesi, dal marzo a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 68, questi sono i mesi principali, ha dato luogo a una tale produzione culturale in termini di diciamo, manifestini, immagini scritte sui muri, slogan, eccetera, eccetera, terribilmente, e questi furono largamente influenzati dalla... come dire, dall'impostazione situazionista. Perché si chiamavano situazionisti? Perché si erano perché i situazionisti erano partiti da una critica del sistema dell'arte, quindi dell'attività artistica, erano partiti da una critica molto radicale dell'attività artistica, perché era una critica che investiva proprio l'arte in quanto opera. Cioè l'arte in quanto i conversazionisti erano, quindi non solo perché l'arte istituzionale era, come dire, situata all'interno del mondo borghese, quindi del mondo quotidiano, normale, eccetera, eccetera, ma anche perché, non solo per questo quindi, veniva criticata l'arte, ma anche in qualche maniera per una sua funzione, chiamiamola così, insomma, normalizzatrice, no? L'arte che avrebbe dovuto essere il regno di una sperimentazione formale, una sperimentazione di forme nuove, di immagini nuove, di linguaggi nuovi, finiva invece in qualche modo per essere, secondo loro, un sostegno al sistema, non soltanto perché veniva assimilata a una merce qualunque con il sistema delle gallerie, dei codici, eccetera, eccetera, eccetera, ma anche perché da un punto di vista linguistico aveva abdicato alla sua funzione, no? Di dare una scossa, di scuotere le, diciamo, coscienze. Le teorie dei situazionisti si basavano principalmente sull'opera, in realtà, di un sociologo francese più vecchio di loro, precedente a loro, che si chiamava Henri Lefebvre. Non mi ricordo mai dove va la B, se prima o dopo la V. Adesso lo scrivo e vedo se... Sì, deve essere così. Henri Lefebvre. E la sua opera principale fu Critique de la vie quotidienne. Critica della vita quotidiana. Lefebvre con quest'opera aveva costruito una variante, una visione del marxismo in cui lui cercava di applicare il criterio marxista generale della priorità del modo di produzione, sul modo di produzione materiale, eccetera, l'aveva applicata agli eventi e agli avvenimenti e agli atteggiamenti della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni. Quando nel 1967 Guy Debord pubblicò il suo capolavoro, uno dei pochi libri che abbia mai pubblicato, sono praticamente l'unico, che fu La Société du Spectacle, La Società dello Spettacolo, in gran parte riprese, senza neanche citarlo tanto, ma insomma, le teorie di Lefebvre. La Société du Spectacle. La Società dello Spettacolo. Nella quale, quale fu la chiave, qual è il concetto fondamentale di questa opera, di questo libro di Debord, per cui, come dire, che poi ci spiega perché la componente stazionista è quella che, insomma, che dal mio punto di vista ha sempre costituito un ponte tra le due anime dei movimenti di contestazione. La definizione, dunque, Debord prende un termine abbastanza, come fanno moltissimi pensatori, eccetera, prendono un termine che ha un certo uso e però gli cambia, diciamo, significato. Quindi la parola spettacolo nel libro, nell'analisi debordiana e situazionista, ha un significato un po' diverso da quello con la quale noi lo usiamo normalmente. E infatti il modo in cui si usa oggi a livello giornalistico è un modo, questo sintagma, società dello spettacolo, è un modo del tutto improprio. I giornalisti, diciamo, travisano il significato che dava Debord al termine spettacolo. Debord chiama spettacolo, in realtà, la società dello spettacolo per Debord è la società della egemonia della merce, cioè in cui la merce è la cosa fondamentale e non gli esseri umani, ma la merce, dice Debord, si presenta travestita, cioè si presenta mascherata, si presenta sotto le forme di qualcosa che non sembra merce, perché sembra appunto uno spettacolo, cioè sembra una fantasmagoria di colori, di luci. Già Marx nel Capitale aveva scritto delle cose simili, nel primo capitolo del primo libro del Capitale, quando appunto Marx comincia a parlare della merce, c'è un capitoletto famoso lungo una decina di pagine chiamato sul feticismo della merce, in cui Marx dice cose simili, racconta cose del genere, spiega che la merce è capace di travestirsi, di avere, ma che poi al fondo è, insomma, sempre merce. Debord allarga questa intuizione marxiana e dice: lo spettacolo non è altro che l'insieme dei rapporti sociali di una società travestiti, cioè reificati, che ci si presentano sotto forma di cose. Lo spettacolo è lo spettacolo della merce. Ma dietro le merci e dietro lo spettacolo, dice Debord, ci sono i rapporti sociali. Lo spettacolo serve appunto a travestirli, a nasconderli, questi rapporti sociali, a farli sembrare qualche cosa che non sono. A farli sembrare qualche cosa che non sono. Allora, se questo è vero, Debord non sconfessa mai il punto di vista marxiano o marxista, per certi versi, dei rapporti fra struttura e sovrastruttura, ma in qualche modo cerca di bypassarlo. Quindi non dice che non sono importanti i rapporti, che non sono importanti i rapporti materiali di produzione e l'esistenza delle merci. Però dice, siccome le merci si presentano prevalentemente sotto questa forma spettacolare, quindi sotto questo travestimento, sotto questa, diciamo, detto in altri termini, la società ci fa finta di regalarci, il sistema capitalistico fa finta di regalarci di volta in volta un nuovo spettacolo, una nuova, una nuova esperienza divertente, eccitante, bellissima, eccetera, eccetera, eccetera, in cui si fanno le cose, ma puoi aspettare la fine. Allora, ci presenta queste cose. Allora, è del tutto inutile, dice De Bort, che noi ci mettiamo a fare delle, sì, grandi analisi, bisogna farle, eccetera, ma la cosa importante non è andare a vedere, beh, allora adesso vado a analizzare, io devo, in primo luogo, devo demolire questa sorta di sovrastruttura spettacolare che ho di fronte a me, se non agisco su questo livello dei rapporti che sono rapporti sociali, questo è un livello, la cosa importante di Debord è che Debord non vede il livello dello spettacolo, il livello della spettacolarizzazione, cioè il livello del travestimento come qualcosa di staccato dai rapporti sociali. In questo senso i testi di Marx non sono chiarissimi da questo punto di vista, ci sono delle volte in cui Marx sembra dire che effettivamente la struttura è staccatissima dalla sua, in altri momenti in cui non è così così gnocco. Nel marxismo però, cioè nella elaborazione fatta a partire dai testi di Marx, soprattutto nel marxismo socialdemocratico, ma anche in quello comunista, diciamo della sua tradizione comunista, non è tanto diverso da questo punto di vista, le due cose sono sempre apparse allora diciamo l'azione sulla struttura è una cosa, quella sulla sovrastruttura un'altra, e quindi erano veramente separatissime. Debord riesce a non, come dire, separarle senza abbandonare, senza tradire l'impostazione marxiana, poi ci saranno degli altri cazzi dietro che è del tutto inutile su cui come fermarsi adesso, però diciamo in prima, come dire, battuta, quindi Debord è cosciente che in quello che all'epoca si chiamava neocapitalismo, adesso fa ridere rispetto al capitalismo che c'è ora, quello degli anni 60 era ancora paleo, ma no, per noi all'epoca ci sembrava molto diverso da quello, non solo da quello annetato da Marx, ma anche in parte rispetto al primo capitalismo fordista degli anni 10, 20, 30 del XX secolo, quindi lo chiamavamo, non noi ma i teorici dell'epoca, lo chiamavamo neocapitalismo. In questo neocapitalismo Debord aveva già visto una componente, cioè la componente che lui chiama dello spettacolo, che aveva un ruolo strategico, che era fondamentale, che non erano i rapporti di produzione bruti, della brutale produzione delle merci, come dire, materiali, ma non era neanche soltanto una impalcatura ideologica staccata da quello. Allora, Debord non dice mai, nella società dello spettacolo non c'è mai scritto che le merci più importanti cominciano a essere quelle immateriali, ma in certi pezzi di quel libro questa è una, come dire, una cosa implicita o una conclusione che si potrebbe trarre abbastanza facilmente. Quindi si può dire che da un certo punto di vista, scritto nel 1967, quel libro è una anticipazione del capitalismo post-fordista che abbiamo conosciuto dopo. Esattamente come un romanzo di Philip Dick di quegli anni, di qualche anno prima, del 1964, che si chiama Le tre stimmate di Palmer Eldritch, è l'anticipazione del ruolo strategico del commercio della droga nel funzionamento del sistema capitalistico mondiale, che ovviamente nessun economista sarebbe disposto a dire, ma che invece noi possiamo abbastanza bene capire perché. diciamo, l'insieme di quel libro, cioè se voi mettete insieme le tre sinfonie di Palmerelli del 64 con Un oscuro scrutare che è del 75, questi due romanzi di Philip Dick insieme, che sono i suoi due grandi romanzi sulla droga, vi fanno vedere che Dick, cioè in quei due romanzi Dick anche lui anticipa il capitalismo post-fascista in modo diverso da come fa De Bort, come ovvio, però le tre sinfonie di Palmer Eldritch ci racconta di un mondo in cui si scontrano due capitalisti, uno che traffica, e sono entrambi trafficanti di droga, uno traffica una droga che entrambe le droghe cambiano l'esperienza di colui che le prende, del soggetto, ma una ha bisogno di una mediazione materiale, di immagini, di un piccolo plastico in cui abita una pseudo Barbie e il suo fidanzatino, tu prendi questa droga che è il candy e ti trasli in questo mondo e pensi. E l'altra droga invece che non ha, e questa la prima droga è quella vecchia, cioè quella del capitalismo tradizionale, quella delle merci materiali. Invece la seconda droga non ha bisogno di alcun supporto per traslarti all'improvviso in un mondo totalmente diverso e cambia la tua esperienza, però è il mondo in cui ti trasla è direttamente e dispoticamente controllato dal mercante della droga, diciamo nuova, il cui slogan fondamentale è: Dio può solo promettervi l'immortalità, noi possiamo vendertela. Questo è romanzo, sì, è romanzo, però è una descrizione perfetta di come funziona il capitalismo oggi, cioè della transizione da uno stadio capitalistico in cui contano le merci materiali, scritto nel 1964, quindi quando nessuno aveva ancora capito, e lui non è che fosse un suo profeta, e che probabilmente fiutava delle cose, poi a lui dava questi sogni, poi adesso non sta a vedere le vere ragioni per le quali. Il discorso De Bort è totalmente diverso. De Bort analizzava, guardava la società e capiva già che nel capitalismo di allora, di quegli anni, quindi degli anni 60, gli anni 60 sono importanti perché sono il primo vero dopoguerra, cioè la Seconda Guerra Mondiale finisce formalmente nel 1945 con le due bombe su Hiroshima e Nagasaki, ma di fatto finisce, i suoi effetti economici immaginari si trascinano ancora per almeno 6 o 7 anni, quindi il vero, la guerra, la prima mondiale finisce almeno 10 anni dopo, con il cosiddetto disgelo, con la morte di Stalin che è del 53, la cosiddetta destalinizzazione, eccetera, in URSS, e è soltanto tra il 55 e il 60 che gli scambi commerciali mondiali ritornano al livello precedente al 1940, quando era scoppiata la guerra, insomma. È soltanto fra il 55 e il 60 che il sistema economico, prende maggiore respiro, e la gente nell'Occidente ricomincia a fare figli. Le persone, io sono di una generazione precedente, ma quelli che hanno 10 anni, 20 anni meno di me, sono i baby boomers. A metà degli anni 50 c'è un boom di nascite nel mondo. Le nascite sono drasticamente calate, come ovvio, non soltanto negli anni della guerra. Io e in parte anche Bifo, quelli che hanno quell'età lì, grosso modo, noi facciamo parte di una generazione, diciamo, rarissima, molto rara, sono pochi gli italiani e gli europei. Io sono nato nel 44, quelli nati fra il 39 e il 45 sono nati molte meno persone, c'è la guerra, c'è poco da fare, quindi durante la guerra, per una serie di motivi, nascono molto più bastardi, come ovvio, ma sono, da un punto di vista, diciamo, giuridico, ma comunque in generale nascono meno. Però il vero boom della curva demografica non si ha nel 46-47, si ha dopo il 55. E quindi gli anni 60 rappresentano, Voi pensate, per dirvene una, il razionamento alimentare, non nel Burundi, in Inghilterra, in Inghilterra, che era stata la patria del primo impero capitalista, prima di quello degli USA, no? E quindi il razionamento alimentare durò sino al 1958-59. L'Inghilterra è stato un paese più duramente colpito di tutti, intanto perché prima che arrivassero gli USA fu quello che, praticamente fu quello che, diciamo, la Francia era stata fatta fuori subito, quindi non c'era più. Gli Stati Uniti erano a parole, ma non arrivavano. Per tutto il 41-42 l'Inghilterra fu il paese che sopportò militarmente, economicamente, eccetera, lo scontro con la, diciamo, Germania. E le andò bene che sui mari, dal punto di vista navale, era messa meglio, perché dal punto di vista aereo, certo, la RAF fece delle cose eroiche, ma diciamo, l'aviazione tedesca era quello che era, quindi, e soprattutto i tedeschi avevano queste cazzo di V2 che gli inglesi non avevano, qui c'erano i missili. Fatti da quel famoso signore Werner von Braun, che poi, una volta salvato dagli americani, perché era ovviamente un nazista e portato negli USA, fu quello che costruì l'era spaziale per gli USA, insomma lui era il costruttore delle V2, una roba che agli inglesi, ai londinesi in particolare, non andò mai del tutto giù, che questo signore fosse stato preso, portato negli Stati Uniti e diventato quello che è diventato, insomma. Werner von Braun, ma è così la vita. Va bene, allora quindi baby boom. Torniamo a De Boer e alla teoria dello spettacolo. Allora, proprio perché De Boer vede, attenzione, ripeto, senza, non è il pensiero degli hippie che dice non ce ne fate un cazzo noi dell'economia, vogliamo solo rubare i libri, strafarci di canne, portare gli orecchini, i capelli lunghi, farci dread, che allora ancora non c'erano, ma insomma quello che. No. De Boer è un marxista, è uno che segue Marx, eccetera, però capisce che il capitalismo sta cominciando a cambiare e va in un senso, in una direzione per cui è importante, è il livello, oggi detto in termini moderni, potremmo dire è il livello della comunicazione, quello della battaglia fondamentale, non tanto quello, certamente bisogna fare il culo a Marchionne e impedirgli che diciamo, delocalizzi tutta l'altro. Potremmo anche in realtà fare una legge per cui non deve più costruire automobili ma macchine per produrre Cervingum, vabbè questo è un altro discorso, diciamo. Però oggi siamo consapevoli, però sono passati 50 anni, che è a livello che diciamo l'immaginario è una merce tanto e quanto è più importante delle automobili e dei frigoriferi e quindi è su quello. Ma all'epoca non era chiaro, quindi questo signor De Boer ha avuto un grande merito e questo grande merito, arriviamo a noi, lo porta però a che cosa? A concepire una tattica che lui prende dalle pratiche artistiche, viste come le pensava lui già ancora negli anni, diciamo, 50, ma che rapidamente si dimostrano simili alle tattiche comunicative dell'ala, diciamo, non politica, dell'ala controculturale, dell'ala hippies, dei movimenti. Le tattiche situazioniste, che sono quelle da cui poi deriva Luther Bliss, cioè, Caronia e tutte le cazzate che sono state fatte successivamente, grosso modo derivano tutte da lì, no? Caronia nella seconda fase, quindi non diciamo il Caronia degli anni 60 che era un bravo militante, sin troppo bravo, hanno diversi nomi, quindi insomma che sono i nomi che ho già detto la volta scorsa, che e da cui poi i movimenti degli anni 70, 80 e 90, 80 e 90 più che 70, ricaveranno alcune delle. Allora, i termini sono détournement, dérive, psychogéographie, al PH, sì. Mi sa di sì. Psicogeografia e che cosa poi? Bastano questi tre per il momento. Non mi ricordo più se ce n'è un altro, ma insomma. Détournement, che cos'è il détournement? Il détournement, allora io l'altra volta, l'altra lezione che voi due non c'eravate, però ho dato una dispensina. Che non so se hanno esercito, per come sono, queste qui sono le cose che abbiamo fatto 3 anni fa nel primo corso di autoformazione del collettivo di Outtasking, praticamente ho preso quelle e le ho messe qua. Note, ci sono alcuni testi situazionisti su cosa significa Détournement, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche i nomi collettivi. Allora, il Détournement consiste in questo, détourner, dunque détourner è un verbo francese, tourner significa girare, tourner, tournement. Détourner significa, alcuni traducono con depistare, in realtà è un verbo intraducibile, perché depistare è già un po' troppo specifico, insomma vuol dire in parte anche depistare. Io a volte lo uso, ho coniato, io ma anche altri, abbiamo coniato il neologismo italiano, deturnare, lo usiamo in Italia, perché non c'è modo di tradurre. Détourner, quindi vuol dire prendere qualche cosa che era già, come dire, che aveva certe caratteristiche, loro partivano da dei prodotti artistici. Dei prodotti artistici che avevano certe caratteristiche e venivano a cui veniva cambiato il significato, usando quelle stesse cose però o per dire un'altra cosa o accoppiandoli con, diciamo, o ad un livello sintattico, puramente sintattico, o ad un livello misto sintattico-semantico, produrre una nuova pragmatica, cioè produrre una nuova prassi, fare in modo che questi manufatti artistici o comunicativi significassero una cosa diversa da quella per cui erano stati pensati e quindi producessero anche degli effetti pratici, diciamo, diversi. La dérive è una specie di détournement. È un détournement di tipo, però, specialmente quando è accoppiata con la psicogeografia. Derive, voi capite che anche lì, il termine derive non è realmente tradotto davvero dall'italiano deriva. Nell'italiano deriva c'è una accentuazione, come dire, di maggiore negatività, come dire, insomma, deriva, a parte il verbo derivare no, vuol dire è un verbo più neutro, ma il sostantivo deriva non indica una parola neutra, se c'è una deriva c'è qualcosa che si è distolta da una cosa che era più giusto che stesse lì, piuttosto che non prendere. E quindi è più simile all'inglese drift, l'inglese drift è più o meno simile all'italiano deriva. Nel francese dérive non c'è questa negatività associata, quindi una dérive è un qualcosa certamente che aveva una sua direzione e a un certo punto la cambia, ma questo cambiamento non viene visto come negativo, viene visto anzi come foriero di possibilità, di cose, eccetera, eccetera. Allora, la dérive più importante... Allora, che differenza c'è tra un détournement e una dérive? Ed è, un détournement è sempre l'effetto di una azione intenzionale. Se non c'è qualcuno che deturna, non si può deturnare una falla. Una dérive, invece, può essere... una dérive, invece, o proprio non ha nulla di intenzionale, o ha una componente intenzionale accoppiata con una forte componente casuale. Se vi spiego che cos'è la forma di deriva più importante per loro, lo capirete benissimo. La deriva più importante per i stazionisti, non a caso, è quella psicogeografica. Cioè, in che cosa consiste una deriva psicogeografica? Consiste nel partire da un punto e cominciare a passeggiare per le strade di una città a caso, senza farsi guidare, senza voler andare da nessuna parte, senza dire sono in Place de la Bastille, voglio andare in Place Vendôme, no, sono in Place de la Bastille e comincio. E se vi capita, comincio al Faubourg Saint-Antoine, se no vado sul Faubourg Saint-Honoré, come cazzo mi... Ah, siete anche pensarci, no? E quindi continuare a mettere un piede dietro l'altro, andare dietro l'altro e andare... quindi capite che cosa significa questo, no? Allora, perché? Ma tutto questo... allora, c'è una componente casuale, quindi lasciarsi andare al caso. Certo che è una deriva, quindi nel senso anche, diciamo, dell'italiano e dell'inglese, ma è una deriva che non è brutta, non è la deriva, vai alla deriva, l'italiano vuol dire non combini un cazzo perché è la deriva, no, invece per un situazionista francese andare a fare una deriva psicogeografica era una cosa positiva, perché con il caso ti consente di trovare delle cose che... E qual era? C'era un obiettivo dietro, ma che non veniva, non doveva venire messo in primo piano, no, come dire, non bisogna pensarci in qualche modo, bisogna lasciare che sia in conto che questo obiettivo emerga davvero. E qual è questo obiettivo? È trasformare la geografia in una psicogeografia, cioè, accoppiare, impregnare il paesaggio urbano, che è un paesaggio nato, ecco perché è una forma di déturmant in qualche maniera la deriva, il paesaggio urbano è una serie di elementi nati per realizzare una certa funzione, le case servono per abitare, le strade servono per andare da una parte all'altra, io gli cambio, gli deturno questa loro funzione e faccio emergere invece una funzione delle case, delle strade, del selciato, che non è quella costruita, che è quella di suscitare in me degli stati d'animo, che è quella di accoppiare i miei stati d'animo con il paesaggio, fare una funzione psicologica del paesaggio. Naturalmente, i più avvertiti tra voi avranno capito che gli Stati Uniti non si sono inventati un bel niente. La loro deriva, la loro psicogeografia in realtà era qualcosa che faceva già parte, almeno dalla cultura francese, sicuramente, perché i francesi già conoscevano, e già conoscevano prima della deriva, una roba di questo tipo, e in effetti la deriva non è altro che la tradizionale flânerie cambiata di nome. E i loro deriveurs non sono altro che gli stessi flâneurs descritti da Baudelaire e poi commentati da Benjamin subito dopo. Che cos'è la flânerie? La flânerie è esattamente la passeggiata senza scopo, la passeggiata del passeggiatore. La passeggiata, direbbe ovviamente il borghese italiano, chi non c'ha un cazzo da fare, certo, chi non c'ha un cazzo da fare. E di chi si può permettere il lusso, perché magari se lo paga in altro modo, si può permettere il lusso di non avere altro da fare e quindi di potersi abbandonare al caso e quindi di poter potenziare la propria vita, la propria esperienza, farla diventare più ricca e più forte proprio grazie a questo caso, proprio grazie, quindi è la flânerie. Queste robe, quindi ci sono delle pagine molto belle in cui già Baudelaire, quindi negli anni intorno al 1840-50, insomma, tra prima e dopo il 48, diciamo dopo il 48, dopo il 1848 principalmente, aveva già scritto e che Walter Benjamin riprenderà nel suo libro su Parigi Capitale. Intanto nel saggio su Baudelaire e poi anche nel libro su Parigi Capitale del XIX secolo. Quindi, in effetti, potremmo dire che la deriva situazionista è una flânerie un po' più politicizzata ovviamente di quella di Baudelaire. Possiamo conservare dei dubbi su quello di Benjamin. Questo insieme di cose in qualche maniera spiega perché la comunicazione politica dei situazionisti sia stata quella che andava bene per il 68 in qualche modo, perché in effetti se io so che il livello dell'immaginario è non solo il più immediato, ma anche una consistenza perché se lo spettacolo sono è il, non è altro che il rapporto sociale che si presenta in forma reificata, se io attacco la forma reificata del rapporto sociale, è comunque il rapporto sociale che io, diciamo, attacco. Quindi non si tratta soltanto di qualcosa che ha una maggiore efficacia comunicativa, si tratta di qualche cosa che va lo stesso al cuore del sistema delle relazioni sociali e quindi della struttura politica, della, quindi siamo ad un livello, quindi vedete che d'un balzo non c'è più differenza tra livello strutturale e livello sovrastrutturale, fra la struttura dei rapporti sociali e la sovrastruttura dell'immaginario, no, perché l'immaginario è già direttamente una forza, si presenta direttamente come diciamo, la mascheratura che l'immaginario opera sul rapporto sociale non è esteriore. L'immaginario, lo spettacolo è rapporto sociale mascherato perché è sceso sino nei livelli più bassi del rapporto sociale e quindi non è una semplice, non è la maschera di Arlecchino, mi tolgo la maschera e dietro c'è l'attore che fa Arlecchino, non c'è nessun attore dietro alla maschera dello spettacolo capitalistico, è già permeato di capitalisticità e quindi di mercantilità e quindi di mercificazione a tutti i livelli, non solo quello strutturale, sovra, diciamo, strutturale, ma anche quello sovrastrutturale. Allora, per esempio, l'operazione che vi ho raccontato prima della miseria nell'ambiente, diciamo, studentesco, perché è significativa? Il testo poteva essere ancora abbastanza tradizionale, se volete, perché era un'analisi della, ma il modo in cui era stato fatto era una beffa, era una derive. Mi faccio dare i soldi dall'Università di Strasburgo per sputtanarla, cioè per fare qualche cosa che va contro il tuo livello di potere, no? Quindi è un détournement, ho preso uno strumento che è uno strumento di indottrinamento e quindi di, diciamo, di dominio del sistema scolastico sullo studente e ho trasformato questo, diciamo, strumento, questo strumento classico di dominio in qualcosa in cui invece gli studenti si riprendono lo spazio. Questo è tutto il principio fondamentale con il quale funziona la comunicazione situazionista. Non a caso, rendiamo omaggio alla preveggenza della tua domanda, non a caso uno degli strumenti che maggiormente utilizzavano i giornalisti era il fumetto. Però che cosa facevano del fumetto? Qualcosa che il 77 italiano ha fatto poi a Iosa, eh? Prendi un vecchio fumetto, che ne so, un fumetto di Topolino, Paperino, Gordon, adesso pigliamo fumetti insomma, di quando ero piccolo io, ma insomma oggi piglierete altri fumetti che avete per le mani. Lasciate più o meno intatti i disegni e gli cambiate le parole. Gli statunitensi hanno prodotto decine di pagine di praticamente trattati di diciamo, discussioni marxiste o dialoghi platonici fatti tra Flash Gordon e l'imperatore Ming, o, ha capito, in cui è buffissimo, capite che è un détournement, cioè prendi quella roba e io ti ci metto questa e ti faccio la cosa. Poi nel 77 italiano, qualcuno geniale, il cui nome era Stefano Tamburini, si inventò anche che esistendo la macchina fotocopiatrice si poteva, durante la fotocopia, una cosa semplicissima, muovere più o meno rapidamente il fumetto, o quello che stavi fotocopiando, e ci usciva una roba bellissima, quindi invece questa fu la ragione, insomma, Tamburini, che è un personaggio di cui nessuno si ricorda perché era un vero maledetto, non come quello, non, diciamo, finto e leccato come liberatore, ma è il vero inventore di Rank Xerox, che adesso viene attribuito a Liberatore. Rank Xerox, sapete chi è? Rank Xerox è uno dei personaggi più importanti del fumetto del 77 italiano. Rank Xerox è uno di Cyborg che ha uno simpatico, un fumettaccio terribile, romanesco, romanaccio. Poi però, insomma, questo qua, insomma, Tamburini è morto presto. Tutto questo avveniva dentro una rivista che si chiamava Cannibale. Tu che sai di fumetto, mi sembra strano che tu non conosca Rank Xerox. la rivista Cannibale ce l'ho presente. Cannibale, uno dei personaggi principali di Cannibale, Razzetto. Allora, Stefano Tamburini, che poi morì di overdose dopo e fu liberatore, cioè quello che faceva i disegni, che si appropriò di questo Ranseros, ma l'idea era Ranseros e Tamburini. Con Tamburini fu quello che si inventò la cosa, quindi prese le vecchie strisce di Alex Raymond, sempre quello che faceva negli anni 30, quello che sta Gordon. Alex Raymond aveva anche un altro personaggio che si chiamava X-Agent, Agente X, ed erano queste persone, sai, degli anni 40, vestite con cappello, ormai, però bello, carino. E faceva queste strisce nel formato quotidiano, cioè le tre vignette una accanto all'altra, quindi con l'albo piccolino, fatto, poi dopo erano fatti più lunghi, ma insomma, questo era. Allora lui prende questo X-Agent, fa le fotocopie trascinando la fotocopiatria, quindi escono queste, esce l'effetto scia, no? Quindi hai uno, per esempio, la faccia, diciamo, della gente, che era uno che aveva Dick Tracy, lo ricordate? Allora, X-Agent è praticamente l'antenato di Dick Tracy, in pratica, è quello che viene poco prima di Dick Tracy. Chester Gould, che è il papà di, insomma, diciamo, di Dick Tracy, ha dichiarato di essersi ispirato in gran parte a questo X-Agent. Allora, X-Agent diventa, quindi, il profilo gli rimane così, però il corpo non è così, è lunghissimo, perché siamo una scia. Allora, X-Agent diventa Snake Agent, no? Agente serpente, che è questo snake, questo piede di coda, che è una cosa geniale. Tutte poi gli cambia anche il testo, fai altre cose, insomma, però intanto addirittura hai anche cambiato l'immagine. Quindi diciamo nelle pratiche comunicative situazioniste c'è una enorme ricchezza e soprattutto una enorme ricchezza perché moltiplichi, non è che devi per forza farti il fumetto tuo, cioè puoi prendere dei pezzi e metterli insieme. Il cut and paste, negli stessi anni, grosso modo, fine degli anni 50, sono gli anni prima, è quando William Burroughs e Brian Gysin a Parigi inventano questa tecnica del cut-up, che consiste nel prendere tante riviste, mettere, tagliare a caso le frasi e poi incollarle a caso e vedere cosa esce fuori. Cut-up, no? Che è un cut and paste, ma non, diciamo, finalizzato, è un cut and paste, è una deriva anche lì, no? Vado a caso, non sovrappongo alcun livello cosciente alla mia cosa, anzi mi lascio guidato dal caso, emergono delle cose. C'erano già stati i surrealisti che avevano teorizzato l'écriture automatique, la scrittura automatica, tante robe, insomma, però qui sono molto più, diciamo, radicali e ovviamente sono collegati con un progetto, però, o comunque con una volontà di trasformazione sociale, cioè si fanno non per divertirsi, ma perché vogliamo rompere i coglioni a quelli che hanno il potere, vogliamo perlomeno rendergli più difficile il commestiere di opprimerci, e se poi ci va bene magari possiamo anche provare a buttarli giù e a, diciamo, rovesciarli. Allora vi racconterò per esempio una delle cose, insomma, a Genova tra il 68 e il 69 furono attivi un gruppo di simpatizzanti situazionisti che si chiamavano Circolo Rosa Luxemburg, c'era una componente situazionista dentro al Circolo Rosa Luxemburg, che ai tempi erano miei feroci avversari politici, quindi adesso l'episodio che vi racconto ebbe la mia più grande riprovazione, ma invece raccontatelo adesso ve lo racconto come una grande cosa, perché all'epoca non lo capì. Questo gruppo situazionista, per esempio, credo nei primi mesi del 69, distribuì nelle scuole elementari di Genova un volantino ai bambini delle scuole elementari, non alle maestre, in cui si incitavano i bambini a ribellarsi alla famiglia, fate quello che volete, fate pipì dove volete, mangiate quando cazzo vi pare a voi, non state attenti alla maestra, tutta una roba bellissima, e già questo era buono, ma attenzione, quali erano le illustrazioni che, cioè, perché erano su due facciate con alcuni disegnini in mezzo, e quei disegnini erano presi da un poster dell'epoca, non fatto dai situazionisti, ma di tipo situazionista, che aveva grande diffusione all'epoca ed era ed era venduto soprattutto nelle librerie Feltrinelli, che era un grande poster in cui c'erano praticamente tutti i personaggi di Walt Disney, tutti, ma tutti impegnati in esplicite attività sessuali. Quindi Topolino che si inculava Minnie, Paperino che si faceva fare un bocchino da Paperina, sì, da Paperina, insomma tutte, ma una roba da morire da ridere, con lui, ti faceva di tutti i colori, gli sette nani, non vi dico, insomma, voi sapete bene che ci sono alcune robe che sono dei classici, insomma, del porno, tipo sette nani ovviamente, però anche lì tutti, anche gli altri, tutti quanti. Bene, questi avevano preso, ritagliato i cosini, quindi vicino al pezzo che dice... ma fare pipì dove cazzo di fare, eccetera, vedevi Pippo che si inchiappettava, non so, a Arabella o chi cazzo era, o Clarabella, un altro personaggio, Clarabella. Quando c'era scritto di non seguite i maestri, c'era uno che faceva un'altra roba, insomma, non so, e tutta una roba così, ovviamente cade scandalo in tempo, perché, e anche noi, quelli seri politici dell'epoca, diciamo, scandalizzati pure noi, denunciammo, diciamo l'accaduto e bla bla bla, e invece sono pensati adesso, comunque questo è per spiegarvi lo stile, questo è lo stile, diciamo, situazionista, che quindi è, insomma, è, come dire, in gran parte insomma, l'ispirazione di molti, almeno di molti degli slogan, se non delle insomma, sì, degli slogan prodotti durante il maggio del 68 francese, insomma, si può largamente ascrivere ai situazionisti. I situazionisti ho una forma di scrittura, non so, mi ricordo, una delle cose che tradotta in italiano viene vietato calpestare le idee, perché allora, si prendeva c'era l'immagine di una aiola e c'era il cartello vietato contestare la Iole. Allora, anche quella era una specie di, sono detto, ma tu prendi un elemento, ed era una roba che era un elemento della vita quotidiana, non è che sovrapponevi alla vita, una roba della vita quotidiana, roba che tutti quanti vediamo. Gli cambi una parola, gli fai un disegnino con un piede che calpesta un fiore, e però il testo quindi qualche cosa che alla tua coscienza civica, diciamo, ripugna, nessuno vorrebbe calpestare, poi magari tutti lo facciamo, ma insomma, però se non c'è calpestare oggi è vero, vedi il piede che scalpesta il fiore ti fa male. E però dietro a calpestare le idee, no? Sono tutti elementi. In realtà, allora, in Italia una vera esperienza situazionista non ci fu mai, perché i gruppi erano molto molto molto limitati. Casualmente Genova fu una delle capitali di quelle, però io stavo dall'altra parte, quindi non ho mai fatto parte di questi gruppi qua, però insomma molti di questi li conoscevo. Mentre tutto il resto del movimento ovviamente era. E quindi non ci furono neanche tentativi, se non di altro tipo, di connessione tra le due ali del movimento. In realtà il movimento controculturale italiano era già nato prima del 68, ma anche i gruppi politici erano nati prima e poi si trasformarono dopo, insomma, e aveva dato vita a una... In realtà era, come dire, diviso al suo interno anche il movimento controculturale italiano. Adesso sta per uscire un libro che sarà fondamentale, che è stato scritto da uno dei protagonisti di quell'esperienza, che sarà una storia della controcultura italiana fra il 1965 e il 1985, quindi 20 anni, ma sarà un libro enorme perché ci saranno materiali in cui che è stato scritto da Ignazio Maria Gallino, che è uno dei membri di un gruppo di lavoro sul tema delle droghe, nato in quegli anni lì, nato prima del 68, comunque questo Gallino è un milanese, che ha più o meno la mia età, forse qualche anno di più, e che è praticamente stato testimone di tutta questa parte qua e possiede un archivio sterminato, molto bello, di cose che ha messo a disposizione per questo libro. Costerà un'ira di Dio, perché è un libro in formato A4 rovesciato, sono più di 700 pagine. E in cui però, siccome arriva fino al 75, ci sarà anche un pezzo scritto da me sulla una esperienza che ho fatto, finita la mia fase politica, ho fatto anch'io un'esperienza che si può variamente, diciamo, considerare controculturale, che è quella della rivista Un'ambigua Utopia, che feci alla fine del, dopo che cominciai nel 1977. In realtà io l'ho cominciata nel 78, insomma, l'esperienza era cominciata senza di me nel 77, io l'ho raggiunto l'anno dopo, io dovevo ancora uscire dal mio incubo politico, uscire alla fine del 77, ci misi un anno prima di capire cosa volevo fare, poi dissi, ma facciamo questa roba, mi sembra carina. E quindi per il rotolo del pupio sono entrato anch'io, entro anch'io nella storia della controcultura italiana, insomma, senza particolari. Questo libro com'è? Non lo so che titolo avrà, penso sarà storia della controcultura, comunque uscirà, ma sarà un'ira di Dio. Adesso mi hanno detto, no, dice che stanno già pensando di fare una edizione integrale per le biblioteche, costerà tipo 100 euro, cazzo, perché sono 700 pagine di formato, ma pensa cosa può. Edizioni NDA, che è il distributore della Shake, praticamente, che ha anche una piccola casa editrice, però sono collegati. Quindi piccola, però insomma di tipo controculturale. Allora stanno pensando, spero che facciano così, di fare una edizione e poi di fare delle edizioni più piccole, ma non che, insomma, che costino quei 15 euro, 20 euro, cioè, magari che non ci sia tutto, ma fatta a pezzettini una parte, che uno già viene, fa 4 o anche 10 euro l'uno, insomma, che comprandone 4 è quasi come avere quello intero, insomma una edizione economica, penso che faranno così. Però non lo so, io il testo mio l'ho consegnato a fine, cosa cazzo è stato? A fine ottobre dell'anno scorso, quindi però pensavo fosse già uscito, forse uscirà in primavera, sa, perché è una roba lunga, perché devo. Comunque è un lavoro gigantesco, io ho visto le bozze, cioè non ho visto le bozze, ho visto la maquette fatta da questo gallino, cioè, quindi ho visto. Cioè, è un oggetto terribile, cioè con le prime fotocopie incollate da lui, perché è fatto prima ancora di passarlo al computer, lui l'ha fatto tutto in modo tradizionale, perché era la d'altra parte non puoi farlo in altro modo, insomma è un po' difficile farlo, comunque lui non sa. Ha proprio dei documenti. Sì, lui ha tutti i giornali. No, dico, nel libro ci sono tutti questi documenti. Certo, riprodotti. Sì. No, no, certo, però riprodotti però ci saranno. Sì. Chiaro. Eh beh sì, perché questa è la ricchezza, avere per esempio, non so, le copertine e dire. Vabbè, allora volevo chiudere in breve dicendovi questo, perché poi invece l'Utter Blizzard lo facciamo le due volte prossime. Allora, in Italia, allora però, diciamo, il mondo controculturale, le correnti della controcultura furono molte anche in Italia, e dopo una prima fase, diciamo dal 65, 64, 65 fino al 67, unite, poi addirittura già nel 68 si presentano divaricate al loro interno, cioè come. E tra la componente che emerge più di altre è quella intorno ad un giornale che poi diventerà famoso, che si chiama Re Nudo, che si chiamava Re Nudo, che però tra tutte queste componenti della controcultura italiana era la componente meno pregiudizialmente ostile all'ala politica. Non ho detto più favorevole, ho detto meno pregiudizialmente ostile, ma bastava questo per fare sì che altre componenti più radicali dal punto di vista dell'underground non volessero partecipare a questa cosa. I due personaggi intorno a cui si creò questa Re Nudo erano due, una coppia di fratello e sorella, Andrea e Marina Valcarenghi. Ognuno dei quali adesso, no, Marina Valcarenghi si chiama ancora con il suo nome perché fa la psicoterapista, la psicoterapeuta, quindi al suo nome, mentre Valcarenghi si fa chiamare Majid, perché naturalmente bisogna come dire, capire che per gran parte di questa ala controculturale, sia negli USA che in Europa, subì fortissimamente il fascino dell'Oriente. All'inizio più dell'India che, diciamo, più dell'induismo che del buddismo, quindi più della cultura indiana, e poi anche quello del buddismo naturalmente, e quindi moltissima di questa gente, oltre a fare il tipico e iniziatico viaggio in India, che per esempio io non feci mai perché stavo in Italia a provare a fare la rivoluzione, così faceva. Invece altri andavano a scappare, eccetera, eccetera. E quindi insomma Magide è uno di questi, Andrea Valchieri è uno di questi. Ci furono però, diciamo, dopo una prima fase di reciproco ignorarsi quasi delle due componenti, ad un certo punto i gruppi dell'estrema sinistra nel 75, quindi i gruppi italiani dell'ala politica, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, il Manifesto, eccetera, il CDUP, si resero conto che in realtà i controculturali, gli hippie italiani, perlomeno quelli di Renudo, avevano in mano uno strumento molto interessante che i gruppi di sinistra non riuscivano a utilizzare. E questo strumento controculturale erano le feste. Questo strumento culturale erano le feste. Renudo faceva sin dal 68-69 degli incontri. È ovvio che la tematica della festa per i movimenti costculturali era più forte che non per quelli politici, no? Perché voleva dire procurarsi uno spazio e una occasione all'interno della quale già praticare quel genere di cose che allora interessava praticare nell'esperienza quotidiana e non in un lontano futuro. Però insomma l'estrema sinistra si rese conto della... e quindi decisero a un certo punto, e Renudo per motivi suoi decise lo stesso, di provare a fare questa cosa insieme, e quindi nacquero da lì le feste del Parco Lambro. Ve ne parlo perché furono uno degli elementi più importanti per quegli anni, anche in termini negativi, perché furono uno dei sintomi più chiari di disgregazione, e ci furono tre parchi Lambri, anzi solo due, che in realtà quello del 75 e quello del 76, io me ne ricordo bene tutti e due, soprattutto uno perché in quel parco Lambro si consumò la fine del mio matrimonio, naturalmente, quindi ho un ricordo vivido da questo punto di vista, perché scoprì mia moglie che insomma, scopava in tenda con un altro, quindi insomma, era una cosa normale, per l'epoca era normalissimo, non c'era una coppia aperta, quindi c'era questa, tutta una serie di altre pratiche selvagge, naturalmente, che noi non eravamo in grado neanche di gestire minimamente, ma che nella nostra follia, e questo beccava ovunque, sia nei politici, nei cose. Adesso a parte di scherzi, chiudo la parentesi autobiografica, ma diciamo no, perché fu quello più terribile, fu quello del 76, l'anno dopo, in cui ci fu invece il famoso assalto al camion dei polli, quando praticamente tutta l'orda, insomma, in un pomeriggio in cui c'erano già le polemiche, il cibo costa troppo, bla bla, eccetera, eccetera, arriva il camion di polli, c'è l'assalto dei cosi al camion dei polli, ci sono i servizi d'ordine dei gruppi che tentano di arginare l'assalto del popolo del Parco Lambro, cioè giovani in magliette slabbrate, a torso nudo, dipinti più o meno in vario modo, che con questi cosce di pollo in bocca, cioè io si abbiamo fatto l'assalto al collo dei polli, c'erano i polli rossi, con le rose potevano via. E quindi cominciarono mazzolate della Madonna, fu una scena veramente agghiacciante, io me la ricordo perché avrei dovuto essere uno di quelli che mazzolavano, in quanto ero il responsabile del servizio di una piccola organizzazione trotschista dell'epoca, ma non me la sentì di guidare i miei 15 compagni, poi 15 soli erano i miei, quindi non erano i 100 di Lotta Continua, però non me la sentì di guidare a come dire, massacrare di botte questa gente, che poi in realtà nessuno viene massacrato, che si membrava veramente. Insomma, la cosa venne salvata da Don Cherry, sapete chi è Don Cherry, uno dei più famosi jazzisti del mondo. Uno bravo, insomma, il quale quell'anno stava lì, perché sto Parco Lambro stranamente aveva anche della gente, poi capito, c'era Don Cherry, non era uno qua, lo sai, come dire oggi, non so, uno veramente, però accettavano di venire lì per quattro soldi, perché chiaramente soldi ne mettevano pochi, ma lui era di sera, no? Questa cosa qui avvenne alle 5:30, 6 del pomeriggio, sono cazzo, quindi, però c'era un tale puttanaio per la cosa che a quel punto Don Cherry ebbe un'idea geniale. Andò sul palco, radunò tutti i musicisti che c'erano allora e cominciarono a fare questo riff. Così. Oh ragazzi, hanno smesso di menarsi. Che C'è. Vai. Tutti sotto il palco, così andava, tutti là sotto il palco. E così si evitò uno, venne evitato uno dei massacri più tremendi della storia del movimento italiano. Il palco l'anno 76. Poi l'anno dopo mi sa che non lo fecero, l'anno dopo ci fu il Puttanai, ci fu il movimento del 77, di cui erano i morti a Bologna, eccetera, eccetera. Comunque quindi vedete che in realtà qualche contatto c'è stato tra queste ali, tra queste cose nel movimento, c'è stata addirittura una componente marxista che è stata in grado di utilizzare una parte di questo, però certamente una ricomposizione non c'è mai stata, e naturalmente la deriva, come dire, militarista e di lotta armata di una parte dell'ala politica, quella che portò in America agli Weathermen, in Germania alla Rotarmeefraktion, alla RAF, e in Italia alle Brigate Rosse e poi agli altri gruppetti, perché ce n'erano un casino a un certo punto. C'era prima linea, in A, ce n'erano di corti e di cruci. Diciamo, la scelta militare di una parte di questa cosa evidentemente, diciamo, aiutò ancora di più a... tutto questo però, volevo chiudere così oggi, perché così diciamo, capiamo meglio le ultime due lezioni, quando, come, insomma, su che cosa le facciamo. Come dire, da un certo punto di vista le pratiche del detournement, della derive, della parodia, dell'utilizzo dell'utilizzo non convenzionale di strumenti e forme di comunicazione più o meno tradizionali, tutto questo viene apparentemente lasciato da parte negli anni 70 o negli anni 80, ma in realtà sotto sotto lavora. E quando riemerge? Riemergono delle forme di questo tipo ancora più generalizzate, ancora più quando c'è la rinascita dei movimenti di opposizione sociale, che adesso sembrano di nuovo in, diciamo, letargo, ma più o meno, diciamo, nel 1999 si è aperta un'epoca nuova con il movimento di Seattle, con il movimento cosiddetto No Global. All'interno di questo movimento No Global e di tutte le articolazioni che si sono create all'interno di questo movimento, e anche al di fuori del movimento, diciamo, No Global, nel momento in cui il movimento No Global non c'è o sembra non essere, cioè nelle pratiche, quindi nei centri di, diciamo, resistenza controculturale, che sono i centri sociali, che sono quei piccoli episodi del movimento studentesco che appaiono di volta in volta, non è un caso che negli anni, diciamo, dagli anni 90, dai tardi anni 90 a tutti i primi 10-11 anni di questo secolo, le pratiche, gli strumenti di lotta, le forme di lotta più interessanti siano state quelle che si riallacciano a queste esperienze, attraverso la mediazione di alcuni episodi sempre a metà tra la politica e la cultura, la controcultura, il più importante dei quali è Luther Blissett, evidentemente. Caronia si è inserito in questa cosa, nel senso che, avendo messo il becco ovunque, perché è si intriga di tutto, no? Non si può tenere fuori da niente. Ha fatto così. Allora, quindi è stato, lui ha fatto un pezzo di Luther Blissett, ha fatto alcuni episodi di Luther Blissett o dei derivati di Luther Blissett in varie forme, in vario modo. Poi si è messo a fare anche lui delle attività a suo modo controculturali, cioè dedicandosi per un po' di tempo alla costruzione di falsi, perché da tutto questo poi esce fuori, diciamo, una pratica che un pochino trasformata porta alle due cose fondamentali: una è il fake, cioè il falso, e l'altra è il cosiddetto nome collettivo, che non a caso quello che quindi le pratiche di fake e di nomi collettivi sono va bene, solo che io nella mia personale particolare accezione ho collegato tutto questo con le cose di cui mi ero occupato probabilmente negli anni '80, che era stata la fantascienza. Quindi nelle prossime due lezioni faremo il fake, i nomi collettivi e come si può leggere la fantascienza come macchina generatrice di forme di lotta, diciamo, divertenti di questo tipo. Fine.